Allora, ci saranno 150 persone chiuse nella piazza, diciamo la polizia ha chiuso tutti i quattro lati e hanno detto che non si partirà da qui, quindi non ci sarà il corteo. E attualmente le persone presidiano sostanzialmente la piazza, non si capisce bene se ci concederanno un simbolico giro della piazza per poi ritornare qui, però se avete presente Piazza Puccini praticamente è come sta fermi e quindi la situazione è un pochino questa, non c'è molto da dire proprio perché appunto non si riuscirà a far partire il corteo e